tutti i vostri ardori. È bello ritornare normalità, è facile tornare con le tante stanche pecore bianche. Scusate, non mi leggo a questa schiera, porrò pecora nera. Voi siete pacifisti, comunisti, clericali, ma io voglio una società liberata. Qualsiasi potere, che fosse anche Rosa Russa, è sempre lì nella sua intimità. Il letto di forza è una forma aberrante di annientamento psicofisico che ti servizia nel corpo e ti dilania la mente. Ero alla mercé di una banda di scialli assassini. La rabbia dell'impotenza stava per esplodere. L'odio per quella gentaglia era infinito, incommensurabile. Riuscii a contenermi per non impazzire e non subire un trattamento farmacologico devastante. Dovevo salvare la pelle e restare integro nelle mie facoltà mentali. Dovevo pur autodifendermi. Quel trattamento spietatamente disumano ti fa sentire sull'orlo di un baratro senza fine, dove nel fondo intravedi solo la tua disintegrazione umana. Gli orrori a cui sono stato costretto ad assistere sono indescrivibili. Lascia alla vostra fantasia l'immaginazione delle torture che in quel luogo si consumavano. Coercizioni, psicofarmaci, lobotomia, elettroshock, shock insulinico. La stecca, ovvero il prolungamento del trattamento, dal periodo massimo di 3 mesi, può protrarsi all'infinito. Un ricatto che ti schiaccia e ti opprime. La paura diventa insopportabile e tu devi controllare qualsiasi emozione. Sei osservato, controllato e non puoi permetterti nessuna esternazione. Tutto può essere strumentalizzato e usato contro di te. La psichiatria è una delle tante espressioni del potere, quel potere assoluto per il dominio e l'annientamento delle differenze, delle diversità. La psichiatria non sa ascoltare, pone il suo marchio infamante e indelebile con una sentenza senza appello ed è parte integrante dell'organizzazione politica e sociale predominante, che la giustifica, la sostiene e la gratifica con il riconoscimento scientifico, mirato al controllo della persona per imbavagliare il dissenso, la ribellione, la lotta. E buonanotte a tutti! E non ridete, e non sbattite in mano, solo per farsi poesia. E viva l'anarchia, che le cannascia rindopola. Però non siate preoccupati, noi siamo gente che finisce male, galera o d'ospedale. Gli anarchici li han sempre bastonati, e il libertario è sempre controllato dal clero, dallo Stato. Non scampa fra chi veste da parata, chi veste una risata. Ho visto questa persona che da 5 anni era legata sul letto di contenzione. Non credo. Perché lui doveva espiare 6 mesi. Allora, però esiste questo sistema infame che il medico psichiatra, no, ha la facoltà di prolungare il periodo. Se sei bene, non sei allora, per lui tu non sei ancora in grado di uscire, è in manicomio, si dice la stecca, si chiama la stecca, no, e ti dà, allora tu devi fare 6 mesi, ti danno altri 6 mesi. E tu rimani per 6 mesi in carcere, in manicomio, poi per 6 mesi, insomma in ogni modo, per 6 mesi per volta, stava questo qui stava 5 anni, da 5 anni di casa sul letto di contenzione. E che cercava? Dei caramelle, del cioccolato, e ho sentito come trattarla. E già la mamma c'è dietro le coppie di luci. E non la mente più mente che mi vecchiava usava il bastone della scopa e lo colpiva sulle dita dei piedi. I gridi erano strazianti e quando trovano l'impotenza di non poterti neppure muoverti ma non difenderti, se no, sei stato ammazzito. Tu hai solo subito, se no, la bramosia di potere di questi vermi viscidi e schifosi. Pensando a te, parlami di te, parlami di te, io saprò ascoltare, se tu mi parlerai di te, saprò ascoltare. Non avere vergogna, non avere vergogna delle tue sofferenze, delle tue sofferenze. Il tuo corpo è stato seviziato, seviziato dagli aguzzini psichiatrici del potere infame, l'infame del potere ha calpestato il tuo candore, la tua innocenza. Volevano distruggerti, annientarti, ma tu sei più forte delle loro torture. Anche il mio corpo porta i segni delle violenze, delle loro violenze. Se tu mi parlerai di te, io saprò ascoltarti, saprò esserti amico. Il segreto dei grandi è non sapere di esserlo, è fare i conti con le proprie insicurezze, insoddisfazioni, con le proprie sconfitte, con un quotidiano da sempre ostile e ancora cercare di capire. Il segreto dei grandi è specchiarsi al mattino con un segno in più sul viso, la stanchezza di una ruga e poterla attribuire alla fierezza dello sguardo, giovane, indomito, proteso oltre le gride. Il segreto dei grandi è nel dare senza accorgersene, è sostituire con una poesia una vecchia bandiera, bisognosa comunque di un'arma, perché quella bandiera non diventi bianca. Il segreto dei grandi sta nel fondo della semplicità, figlia di un'innata ingenuità. I grandi non sono mai furbi. È difficilmente vincere, è forse di vincere di dietro un andazzo. I grandi credono, provano e l'ultimo giorno saranno impegnati e il giorno dopo sicuramente ricordati. I grandi non conoscono paroloni, quello che rompono solo i coglioni. I grandi siedono al tavolo con te e magari ascoltano, ancora ascoltano. E dopo, a fine serata, quando ti alzi e paghi il conto, ti rendi conto che per quello che hai preso non hai pagato un cazzo. A Perugia avevo conosciuto questo mio compagno che era di Adria. Allora io all'epoca, io da sopra detto che ero comunista, però io il comunismo lo immaginavo a modo mio, no? Sì. E lui parlando, dice, no, ma tu non sei comunista, perché dice, sai, il mio simbolo era faccia martella, ero cresciuto in una famiglia in ogni modo amendolista, perché mio nonno era amendolista, perché gli amendoli sono originari di Sarno. Ah, sì? Sì. E allora mio nonno era mendolista, proprio spiegherà, e mi ricordo che quando ci fu il referendum, quando ci fu il referendum nel 1946, io avevo appena 8 anni, no, e mio nonno che aveva qui in piazza Municipio la sua bottega da calzolaio, che prima della guerra era proprio questo negozietto, no? Lui faceva le scarpe, aveva la sua vetrina e le vendeva, no? E allora però dopo la guerra questa vetrina era vuota quando ci fu il referendum Repubblica o Monarchia, che hanno vinto i repubblicani, mia nonna era repubblicana perché era mentorista, ha adornato la sua vetrina con tutte le frasche piene di limoni, mm-hmm, e che ha inserti i fighe secche. Perché? E tutti i monarchici che passavano, perché poi è proprio vicino a Piazza Municipio, tutti i monarchici che passavano di là, lui faceva questo ritornello, no? Dice, faceva una fettina di limone, mm-hmm, e gliela offriva con il figo secco, e poi faceva questo ritornello, mangiate un limone, la figa in zucchero, a me la stagione, ho reso una fiuta. Era uno spazio che mi ricordi come diciamo, io facevo sempre riferimento sul fatto comunista, e questo compagno dice, no, ma tu per le cose che dici tu non sei comunista, tu sei un anarchico. Io sinceramente non ho mai sentito parlare di anarchia, la parola non la conoscevo proprio. Ma adesso avete voi potere, adesso avete voi supremazia, diritto e polizia, gli dei, i comandamenti ed il dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.